Dalla piazza, in particolare abbiamo il presidente della comunità curda toscano-fiorentina, non me lo ricordo. Ciao. Sì, no, allora sono sempre io, ve lo passo, Oh, avete sì. capito bene, presidente della comunità curda toscana Oh, est, ecco Toscana. qua. Perfetto. No. Pronto, ciao, mi senti? Ciao, sì, mi sento. Ok, allora ciao, grazie di essere qui con noi. Raccontaci se ti va un pochino la giornata di oggi, come ci siete arrivati e le impressioni che hai al volo. Anche il 20 gennaio il governo turco ha inverso di in Siria Afrin 2 anni fa, è stato anche l'attacco con ISIS e al-Nusra, tutti i gruppi di avanzati hanno portato il nostro territorio a Kobane, hanno fatto un attacco, abbiamo liberato Kobane e in tutto il mondo è cominciato una favore del popolo curdo, YPG, PKK. Invece da 20 gennaio un accordo delle interessi economia, un accordo delle aziende che vendono armi, Germania, Italia, Russia, hanno fatto un accordo con Stato turco, con governo turco, dittatore Erdogan, hanno cominciato a attaccare a Afrin, città di Siria, città di Kurdistan, proprio un genocidio stanno facendo lì e tutto il mondo sta silenzio. Noi ci siamo in piazza per rompere il silenzio dell'Europa, perciò oggi con tutte le associazioni, discese politiche, tutti i gruppi siamo in piazza di Firenze. Certo, come ti sembra che abbia risposto la città di Firenze e la comunità anche in Toscana, curda e italiana, insomma? Sì, certo, comunità curda toscana, coordinamento toscana con i nostri compagni, gli italiani, in tutti i sensibilità, oggi siamo in piazza. Migliaia di persone oggi stanno in piazza per dare una voce, per rompere questo silenzio, accanto di un popolo curdo, contro il fascismo, perché sia Toscana sia Italia lo sa benissimo dei partigiani, ricorda bene delle partigiani che lotta per questo lottato per l'Italia. Oggi dove c'è fascismo è Toscana, Italia sta continuando a lottare contro il fascismo e per questo oggi stanno vicino del popolo curdo, vicino a Afrin, contro Erdogan, contro il dittatore dell'Erdogan. Certo, ti ringrazio molto e speriamo di sentirci appresto e speriamo ci siano mille giornate come queste di solidarietà e di lotta insieme. Ti ringrazio ancora. Speriamo, grazie, speriamo anche noi e ci crediamo, la solidarietà vincerà, resisterà e sempre arriverà a libertà. Grazie. Grazie a te, ciao ciao.